Siete impagabili in quanto a disonestà intellettuale lì a Radio 24, poi Milan è il capo. Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Siamo qui, cari ascoltatori, eccoci, ben ritrovati per una nuova settimana di Uno Nessuno 100 Milan. Ci siamo in onda dalla ridotta di Viale Monza, la ridotta di Viale Monza. Siamo con voi fino alle 10.30, ebbene sì, anche questa settimana. E prima o poi ci riallungheremo fino alle 11. Chi vivrà vedrà, siamo un po' come nella fase 1, 1 e mezzo, 2. Allora, cari ascoltatori, 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. Sapete che abbiamo anche, come di consueto, i numeri per i vostri WhatsApp, per i vostri messaggi, 349 238 6666. Chiamateci lì, scriveteci lì, mandate sms. Voglio salutare oggi Carmelo Lauricella in regia, ecco, chiamatissima questa cosa, chiamatissima. C'è anche Danilo Di Trani che ci assiste, sì, vabbè. E poi vabbè, c'è Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli in redazione, lo sapete, sono i soliti. Niente applausi? Niente? Carmelo, lo sciopero di Carmelo Lauricella? No, vabbè, subito la redazione ti sarà molto grata per questo. Allora, dai, siamo qui, ovviamente sapete che si parla di fase 2, 1 e mezzo. Devo dire, vabbè, parti con l'entusiasmo, vai, ci vuole un po' di entusiasmo, Carmelo. Entusiasmo, ecco. About the future. Ci vuole un po' di entusiasmo zoppicante, perché devo dire che, andando a ritroso, la battuta forse migliore a questo punto era quel, oddio, devo dire questo termine che odio, meme, vabbè, quella roba che circolava su WhatsApp, la differenza tra la fase 1 e la fase 2 sarà come la fase 1 ma in maniche corte, perché questo è il dato di fatto, ragazzi. Io mi astengo dal giudizio, ditemi voi che cosa ne pensate del discorso del Presidente del Consiglio. Chiamateci all'800 800 meglio 24 00 24, diteci che cosa ne pensate, se vi attendevate una maggiore apertura, se ve ne attendevate meno, se siete soddisfatti, se siete un pochino infastiditi. C'è lo slogan, intanto lo slogan. Non si capisce come mai si debba procedere per slogan, però sono cose che piacciono tanto ai politici, questi slogan che dovrebbero in qualche modo entrare e segnare delle fasi. Il nuovo slogan è "mantieni le distanze se ami l'Italia", una roba incredibile. Va bene, sentila qua. Se ami l'Italia, permettetemi di dirlo, mantieni le distanze. Eccolo qua. Questo è il nuovo slogan: se ami l'Italia, mantieni le distanze. Ho detto, ditemi che cosa ne pensate di questa nuova fase 2 che si aprirà il 4 maggio, poi ha detto anche il 18 maggio, poi ha detto il 1 giugno. Io i bar fino al 1 giugno non ce la faccio. Non so voi, io a non entrare in un bar qui di quartiere prima del 1 di giugno non ce la faccio. Io non la trovo una delle limitazioni più insopportabili. Va bene, mi hanno scritto anche, tra l'altro, adesso recupero la mail, una gentilissima gestrice o titolare di bar con il marito in zona via Novara a Milano, quindi dalle parti della redazione del Sole 24 Ore di Radio 24, non dalle parti di casa mia, ma insomma, mi ha scritto una mail gentilissima, dopo magari la recupero e la leggo. Però al di là dello slogan, io dico: qui potete dire quello che volete, potete anche criticare, potete anche, come ha detto Conte, criticare la stampa, cioè criticare il sottoscritto. Non potete, non se, questa è la, secondo me è il passaggio più incredibile, la captatio benevolentiae, cioè a dire potreste essere arrabbiati ma sarebbe meglio di no. Questo è il concetto. Vai, Carmelo. Possiamo quindi anche reagire negativamente in questa fase, potremmo affidarci al risentimento, perché no, alla rabbia, a ricercare un colpevole, Potremmo prendercela con chiunque ci capiti a tiro, in famiglia, con i familiari, con l'Europa, con il governo, con i politici, con le regioni, con la stampa. Invece possiamo operare un'altra scelta. Scacciare via rabbia, risentimento, pensare a cosa ciascuno di noi può fare per risollevare questa nostra comunità. Qui a un certo punto, quando ho sentito quello che ciascuno può fare, ho detto no, John Fitzgerald Kennedy a Berlino, non chiederti quello che il paese può fare, la nazione può fare per te, ma quello che tu puoi... No, ho detto non dirà questa cosa di Kennedy, non l'ha detta, anche se una vaga reminiscenza c'era, un vago accenno c'era a John Fitzgerald Kennedy. Non lo so, non l'ho capita questa cosa, potremmo arrabbiarci, ma sarebbe meglio di no, contro i politici, contro il governo. Allora io dico, arrabbiatevi contro la stampa. Il sottoscritto è pronto a prendere con le spalle larghe tutte le critiche, criticate me, e va benissimo, io accetto questa cosa. Ecco, intanto abbiamo recuperato, grazie alla sfida Luchetti, la mail. Ormai ci parliamo così, con le vibrazioni mentali che arrivano da Viale Monza, arrivano così nell'aereo e arrivano e raggiungono la nostra redazione. La nostra redazione, Miriam Luchetti, mi ha recuperato la mail della simpaticissima barista che ci ha scritto: mi piacerebbe, se fosse possibile, lanciare una campagna per aiutare i piccoli bar, quelli sotto casa dove si va quotidianamente a fare colazione, a bere il caffè. Straordinario, cioè, sono dei punti di ritrovo per me fondamentali nel mio quartiere. Io vado spessissimo con mio marito, è una cittadina, al Family Bar, vicino casa nostra, è una cittadina, non è la titolare, ma dice il Family Bar, come noi lanciamo ogni tanto il Bar Jimmy, la cittadina va al Family Bar, zona San Siro, via Novara, e dice questa Carla, signora Carla, quando riapriamo vorrei dare una mano, io ci sarò senz'altro, e... lo facciamo così, certo sarà chiuso. Family Bar, zona San Siro, via Novara. Manera c'è il Bar Jimmy, io ho lo Spazionolo 43, ho il Carapina, i miei due punti di riferimento qui come bar di zona. E dobbiamo fare così, dobbiamo darci da fare aiutando la situazione. Oh, a proposito di fase 2... c'è anche quella dei party. Voi avete mai fatto un party? Ragazzi, un party. Cioè, a un certo punto il Presidente del Consiglio ha parlato dei party. Vai, Carmelo. Non stiamo dicendo che sono d'ora in poi consentiti dal 4 maggio party privati, familiari, ritrovi di famiglia. Effettivamente non è che si è capito benissimo. Non c'è, cioè, puoi andare a casa di un familiare, ma non puoi fare un ritrovo familiare. Puoi andare a casa a trovare i parenti, ma non puoi fare un assembramento. Cioè, sinceramente, è tutto un po' così all'italiana. E infatti voglio segnalarvi velocemente, prima dei miei ospiti, tre interviste che ho letto oggi sui giornali. La prima a Matteo Bassetti, che presiede la Società Italiana di Terapia Antinfettiva e direttore delle malattie infettive a Genova. Ieri ha preso il primo giorno di pausa di lavoro dopo 58 giorni consecutivi in servizio. E dice: ora basta, ora fermiamo questa paura. Ci credo che gli italiani abbiano paura. Tutte le sere, puntuali per 60 giorni, sentono la conta dei malati e dei morti. In Francia, in Spagna, in Belgio, condizioni simili, non credo si siano preoccupati in questo modo. E dice questo medico, per esempio, le mascherine, coprirsi per strada, lontani da tutti, da soli, è inutile. Inutile. E dice ancora, l'emergenza è grave, evitiamo il liberi tutti, ma siamo stati i primi che hanno chiuso, saremo gli ultimi a riaprire, c'è troppa paura, c'è poco coraggio, forse anche colpa nostra, forse dell'OMS, dobbiamo confidare nell'educazione dei cittadini, non possiamo blindare tutti. Medico, infettivologo. Poi parla a Libero il luminare della rianimazione in Germania, il professor Luciano Gattinoni, intervistato da Pietro Senaldi, dice: moriamo in Italia più che in Germania? È certo, ma è un paese nel caos. Dove ci sono le task force, ognuno finisce per spararla grossa. Se ci sono più di 5 o 6 persone a decidere, la commissione diventa inutile nel migliore dei casi, dannosa nel più frequente, perché l'accordo lo si raggiunge sempre al livello più basso, cioè quando si decide in pochi, in pochi. E per esempio il professor Gattinoni dice: beh, ma ci stupiamo che ci siano più morti in Italia che in Germania, ma se il paese è disorganizzato non si può pretendere che la sua sanità sia organizzata. Come mai si è morti così tanto in Italia? Per esempio, dice Gattinoni, quando 3 anni fa l'OMS ha lanciato un rischio epidemia nel breve periodo, in Italia non si è fatto nulla. In Germania già da 3 anni si erano attrezzati con mascherine. Chiudo con l'intervista allo storico Franco Cardini, torno sul quotidiano nazionale. Basta terrore, anche questa epidemia finirà. Basta terrore. Ecco, c'è questa idea che ci hanno instillato una paura fottuta. Questo devo dirlo così. Però voglio chiedere lumi a un altro storico, che è il professor Luigi Ganapini, che saluto. Buongiorno, professor Ganapini. Buongiorno a voi. Allora, lei è uno storico e quindi io a uno storico, siccome sento tanti paragoni, storia contemporanea, lei è un esperto, insegna, sento tanti paragoni con la Seconda Guerra Mondiale, eccetera. Mi vuol dire effettivamente se possiamo fare questo tipo di paragoni? Non vorrei usare la abusata frase "la storia non si ripete mai due volte" allo stesso modo, ma ci dica lei: usciremo da questa emergenza come dalla Seconda Guerra Mondiale, in macerie di altro tipo? Sono un po' perplesso che uno storico possa dare una risposta, la può dare qualunque cittadino, quindi io non sono convinto che ci siano similitudini facili da applicare, quindi certo ne usciremo, ma la Seconda Guerra Mondiale è stata una cosa ben diversa, qui nessuna casa è crollata, mi risulta, per esempio. Certo. Quindi non farei paragoni un po' strani. Certo, usciremo da un'emergenza. No, sa perché il professor De Rita, 87 anni, fondatore del Censis, ha detto: dovremo in qualche modo ripartire come abbiamo fatto dopo la Seconda Guerra, quando, parole sue, eravamo degli straccioni e ci siamo inventati delle cose. Allora, chi si ingegnerà qualcosa di più degli altri e di meglio degli altri ce la farà. È davvero, almeno questo paragone possiamo farlo? Ma ho dei dubbi, perché oggi le reti di solidarietà, di amicizia, cioè tutti i legami di una società civile sono ancora in piedi. Dopo la Seconda Guerra Mondiale le cose erano un po' più complesse, le lacerazioni molto più profonde da paese a paese, da tacere nord e sud, ma proprio all'interno degli stessi comparti nord e sud, ogni paese aveva vissuto un'esperienza piuttosto diversa da quella del suo vicino. Sì, ma io credo che infatti questi paragoni, ma anche forse il paragone dire "è come una guerra", lei lo rifugge, no? Ma direi proprio di sì, a meno che i cittadini non siano così armati di spirito combattivo, ma non mi pare, grazie a Dio siamo molto più paciosi in questi tempi, anche se preoccupati giustamente, ansiosi per i parenti, i vicini, gli amici, eccetera. Tutto questo è giusto e normale, ma da qui a fare il paragone della Seconda Guerra Mondiale ci andrei piano. Questa è la mia impressione, che non vale così mica molto. Senta, io voglio salutare anche il professore Salvatore Morelli che ci ascolta. Salvatore Morelli è promotore del Forum Disuguaglianze e Diversità, ricercatore al Centro Studi per l'Economia e la Finanza al Federico II di Napoli. Buongiorno Morelli, grazie. Buongiorno a lei. Perché lei ha fatto un lavoro sulla voce.info, pubblicato, molto interessante, sul tema del risparmio e delle, possiamo dire, delle povertà degli italiani. Mi ha molto colpito sentire dire che 10 milioni di italiani rischiano la povertà. Ci può dare due numeri legati anche al risparmio degli italiani che lei ha trovato in questa ricerca? Sì, gli italiani sono da sempre considerati un popolo di risparmiatori e diciamo, questo corrispondeva al vero fino a poco tempo fa. Negli anni 90, nella metà degli anni 90, l'Italia era considerata uno dei paesi con il più alto tasso di risparmio, quindi la percentuale del reddito totale che veniva messo da parte sostanzialmente per accumulare ricchezza era uno dei più alti al mondo, se non il più alto al mondo nel panorama dei paesi sviluppati, circa il 16%. Bene, questa percentuale è decresciuta sostanzialmente fino al 2,5% nei giorni odierni, essendo già stata colpita duramente durante la crisi del 2008-2009. Quindi la prima crisi ha fatto abbassare la testa, stavamo per rialzarla e mentre la stavamo rialzando ne è arrivata un'altra di crisi enorme. Ecco, quindi la domanda che mi sono posto era, il governo ci chiede di rimanere a casa, chiudendo attività economiche e produttive giustamente per poter affrontare una pandemia, bene, quante persone potrebbero invece trovarsi in condizioni di estrema difficoltà perché non hanno a disposizione risorse liquide da poter utilizzare in assenza di misure di tutela, di protezione sociale, in assenza di reddito. Ebbene, questa la percentuale di persone che hanno almeno, abbiamo fatto due conti, circa 2.000 euro di risorse liquide o liquidabili, ebbene meno del 40% della popolazione. Cioè del 40% degli italiani hanno meno di 2.000 euro, hanno più di 2.000 euro. Ovviamente si tratta dei dati comunque con alcuni limiti, quindi se volessimo essere molto prudenti, le misure più prudenziali indicano che almeno 10 milioni di italiani non hanno questa somma, quindi si tratta di circa il 20% degli adulti italiani. Accidenti, insomma è una cifra. Che cosa significa questo in termini pratici? Cioè non avere neanche una forma di risparmio da parte, lo si può concretizzare sulla vita quotidiana, cioè su come bisogna risolvere questa situazione di partenza che è una situazione drammatica? Per avere un'idea di quanto questa cifra possa essere utile nel ragionamento, mi sono rivolto alle stime ufficiali del nostro istituto di statistica nazionale, l'Istat, che calcola delle soglie di povertà differenziate per tipologia di famiglia, per zona di residenza. E prendo una famiglia a riferimento, una famiglia che vive nel centro Italia, composta da un adulto di anni compresi tra 18 e 59 anni, mi rendo conto che nel centro Italia ci vogliono, secondo l'Istat, una cifra pari a 760 euro mensile per far fronte a delle spese un paniere di beni e servizi essenziali, considerati essenziali dal nostro statistica nazionale. Ebbene, quindi se noi assumessimo che tre mesi in assenza di tre mesi di reddito, questo equivarrebbe appunto a circa 2.000 euro. Quindi in assenza di tutela, in assenza di protezione sociale, in assenza di un reddito proveniente dall'attività lavorativa, ci sono una migliaia di persone che potrebbero non farcela. Non farcela significa cadere al di sotto della soglia di povertà. Sì. Beh, questo allora non so se questo tipo di paragone sia fattibile, però professor Ganapini, lei non è ovviamente né un economista, un esperto di economia, però storicamente quanti italiani erano in difficoltà economica finita la Seconda Guerra Mondiale? Immagino tantissimi, se non tutti. La massima parte sicuramente, certo c'erano anche profittatori di guerra che sguazzavano, ma ne erano oligarchie abbastanza limitate, quindi durante alla fine della Seconda Guerra Mondiale la miseria era molto molto diffusa. Che ci può aiutare a capire che tipo di provvedimenti economici furono presi? Perché adesso si parla molto di il reddito di cittadinanza, ma si parla anche di altri tipi di redditi, di emergenza. E lo stesso De Rita ritorna a quell'intervista, ha detto siamo mai un popolo di sussidiati, cioè attendiamo l'aiuto dello Stato mentre dovremmo prendere in mano la situazione. All'epoca ci furono tanti sussidi di Stato o ci fu la possibilità di liberare risorse e liberare creatività e liberare imprese? Ma la parola d'ordine immediato dopoguerra era liberismo, che però non significava liberare risorse, ma lasciar fare. Quindi c'è stato un periodo piuttosto pesante in cui i cittadini hanno dovuto affrontare le loro difficoltà in gran parte in solitudine. Questo è un po' il tema. Oggi invece, tornerei per un attimo a Morelli, credo che ci sia più il focus sull'idea di dire ci vogliono delle misure straordinarie di sussistenza. Lei cosa ne pensa, Morelli, dal punto di vista di quando sente parlare di redditi di cittadinanza che potrebbero essere affiancati da altri provvedimenti economici simili? Misure di assistenza temporanea sono assolutamente essenziali, sia dal punto di vista umano, sia dal punto di vista, diciamo, della produttività, della tenuta del nostro sistema produttivo. Ovviamente abbiamo davanti una crisi temporanea e temporaneamente possiamo far fronte come società civile, come governo, come Stato a una condizione di bisogno dettata da una forzata chiusura delle attività produttive. Quindi non solo è necessario, ma è importante intervenire tempestivamente anche per evitare. Ma come? Cioè lei come immaginerebbe, non so, un reddito, cioè a fianco al reddito di cittadinanza? Esatto, noi abbiamo la fortuna in Italia di avere il reddito di cittadinanza, abbiamo la fortuna di avere delle casse della cosiddetta CIG, quindi la cassa integrativa, sì. Che molti paesi non hanno, e questo non ce lo diciamo a sufficienza, perché molti paesi la stanno disegnando in questi giorni, una cassa integrazione, quindi noi è bene che dovremmo sottolineare molto di più l'importanza di un sistema che ha già previsto queste forme di tutela del lavoro, perché in presenza di una cassa integrazione vuol dire che le persone non perdono un lavoro oltre a mantenere una fonte di reddito. Noi tutti sappiamo quanto è difficile anche creare le condizioni affinché un'impresa trovi la forza lavoro utile alla propria attività. Sì. Questo ha un costo anche per l'impresa, non solo per il lavoratore. Il reddito di cittadinanza, questa occasione potrebbe fornire l'occasione giusta per dargli un po' di dignità, nel senso che noi l'abbiamo un po' bistrattato, la discussione pubblica intorno al reddito di cittadinanza, sì, è stata abbastanza feroce. In questo contesto è un contesto di protezione sociale ed è giusto che uno Stato si faccia carico della protezione sociale, della sicurezza. La protezione sociale. Va bene, insomma, anche su questo poi sono posizioni di dibattito. Io sono stato il primo, a criticare il reddito di cittadinanza, non nella parte del sussidio come qualcuno in maniera molto brutale ha detto, cioè vuoi che i poveri non ce la facciano, assolutamente no, ma come è stato presentato, cioè diamo un sussidio per reinserire nel mercato del lavoro le persone. Allora mi sembra che questa seconda fase, e lo dico adesso, ma lo dico anche prima, nella fase pre-Covid, questa seconda fase del reinserimento nel mercato del lavoro di percettori del reddito di cittadinanza sia sostanzialmente fallita nei grandi numeri, però certo, diceva che ci voleva del tempo, adesso è arrivata questa botta, staremo a vedere. Io intanto vi ringrazio Salvatore Morelli, ricercatore alla Federico II di Napoli, ringrazio il professor Luigi Ganapini, storico. Stanno arrivando molti messaggi sul tema, le critiche, vabbè, lasciamo stare le esagerazioni, tipo chi scrive il nuovo duce o chi dice è un limitatore della libertà. Non esageriamo, a proposito di paragoni con la storia. Olga dice: il presidente parla a noi come ci si rivolgesse a un bambino di 2 anni. Qualcuno invece critica la stampa, come Emma dice: sarà noioso. Ma voi giornalisti avete rotto talmente le scatole con tutte le solite domande che lui ne esce migliore, Emma. Ma a proposito di domande, c'è anche questo tema, per esempio, della scuola. Io non ho capito, non si è detta mezza parola ancora sulla scuola, ma ha detto qualcosa Conte sull'esame di maturità. Ora lo dico, lo faccio come una sorta di provocazione. A me questo dibattito sull'esame di maturità ha rotto rotto le scatole. Sembra che la scuola sia solo l'esame di maturità, che è un momento fondamentale, è un momento fondante per ogni ragazzo, per ogni ragazza, lo sappiamo, tutti ricordiamo il nostro esame di maturità, ci hanno fatto dei film, hanno scritto dei libri, ma sembra che il problema della scuola sia ridotto solo all'esame di maturità. Ma allora io per provocazione dico, ma chi se ne frega dell'esame di maturità? Cioè ci saranno le materne, ci saranno le elementari, ci saranno le medie, ci saranno i licei, ci saranno, vabbè, le università magari si attrezzano con la didattica a distanza avendo a che fare con dei ragazzi un po' più pronti anche dal punto di vista recettivo a capire questa novità, ma adesso il problema sembra solo l'esame di maturità, come faremo l'esame di maturità, ma dimmi se riaprono le scuole come fa Macron a maggio? La risposta ovviamente è no. Si dice abbiamo seguito gli scienziati. Beh, ieri è uscito sui giornali uno studio del Politecnico di Milano fatto da ingegneri, quindi non i primi che passano per la strada, che hanno analizzato tutti i dati e in base ai dati, quindi sono scienziati a loro modo, ingegneri, hanno detto che la riapertura delle materne e delle elementari con le condizioni di sicurezza si potrebbe fare. Ingegneri del Politecnico di Milano, che sono dei, con tutto rispetto, panettieri che hanno fatto questo studio, no, degli ingegneri, eppure solo l'esame di maturità, adesso tutti impiccati a capire questo esame di maturità come sarà. Vabbè, andiamo un attimo alla pubblicità, poi gli ascoltatori e ovviamente l'arrivo di Leonardo Manera. Uno, nessuno, 100 Milan. Buongiorno Milan, da Emilia. Chieda al presidente Conte se possiamo almeno offrire un caffè ai nostri familiari. Conte, io da partita IVA me ne sto a casa, però tu tira fuori i soldi, perché sennò io la partita IVA te la porto giù a Roma, caro. Caro Milan, la vita è bella e Conte è stato grande. Ma scusami Milan, ha fatto un bellissimo discorso Conte, ma anche questo a te non va bene, ma non perché non ti va bene per chissà quale motivo, non ti va bene perché non riesci a capire ciò che vuol dire Conte. Buongiorno Mila, i bar prima di giugno, i parrucchieri fino a giugno, che sembro una siepe da non so neanche come catalogarmi. Problemi che Leonardo Manera non ha, per esempio, caro ascoltatore. Problemi questo che Manera non è vero. No, ho già spiegato altre volte che i capelli mi ricrescono e me li taglia mio figlio. Con la macchinetta mira a zero. Quindi si può fare a casa. Io sto pensando hai bisogno di un taglio particolare, no? Si passa la macchinetta e alè. Ma tutti a zero, tutti i tagli a zero io farei in questo periodo, così. Sì, sto pensando su qualche cugina carina, sai? Qualche cugina carina, attenzione. Ah, sì, da con cui fidanzarmi, no, con cui per andare a trovare e fidanzarmi con lei, perché hai visto che ci si può, eventualmente si può andare dai parenti, ma se hai una fidanzata non con la quale non hai legami di sangue o legittimi, sei sposato, no, e quindi è il trionfo della famiglia tradizionale, tutti quelli che per anni no, hanno è il trionfo della famiglia tradizionale. Sì, tra l'altro sai che pare che nelle discussioni pare, Conte voleva introdurre proprio la parola fidanzati. E poi, beh, questo leggevo sul Corriere della Sera, e poi invece gli hanno detto che presentarsi agli italiani dicendo, insomma, si può andare a trovare il fidanzato, la fidanzata, non era, non lo so perché, tra l'altro. Non è bella, non la parola, pare opportuno. Brutto, cioè devi essere sposato per forza. No fase 2, sì. No party. Convivente sì, non no. È bello, che magari è un convivente a distanza, fidanzato non è bello, solo i legami legittimi ufficiali, solo i legami ufficiali. Ufficiali! Comunque. si sorride, ma io non è che ho sì, ho fatto delle critiche, ma partendo dal presupposto che non deve essere per nulla semplice su quella seggiola e cercare di capire cosa fare. Sì. Però mi sembra che ci sia questa idea del cioè, anche per esempio, riprendono i funerali, ma solo in 15. Vabbè, praticamente non riprendono, cioè sì, lo stretto congiunto. Cioè non, poi sai cosa mi ha colpito anche? Ha detto, se non sbaglio, che l'INPS ha fatto in un mese il lavoro che in altri tempi avrebbe fatto in 5 anni, ma forse l'anomalia era prima, cioè fare quei lavori in 5 anni, o no? Forse sì. Forse l'anomalia era quella, così mi viene da pensare. Sì. No, vabbè, come l'idea del andiamo a casa dei familiari ma no assembramenti. Cosa vuol dire? Esattamente cosa significa? Cioè io vado a trovare mia mamma ma posso portare anche i figli? Devi... Siamo in 3, siamo in 5, siamo... non si capisce. Come sempre. Io per esempio andrò magari a trovare mio padre che però vive con una badante e dovrò... Attenzione però, no, perché a Salò... A Salò devi andare è regione Lombardia, posso andare, quindi sempre puoi. Regione Lombardia da Milano, però non si capisce niente, dovrò stare... scusate no, è regione Lombardia, si può, però devo stare a un metro sia da mio padre che anche e non dalla fare badante party. Mi sembra di aver capito. E non fare party, tuo papà fa party, volevo fare un party con la badante. Vabbè, dai. Sentiamo Antonio dalla provincia di Venezia. Antonio, buongiorno. Sì, Antonio. Pronto? Prego. Scusa, ero con le cuffie, scusi. Vai. Niente, ci siamo già sentiti, io sono un infermiere, mia moglie è un'infermiera e non riesco a capire tutte queste polemiche, perché sono 2 mesi che stiamo lavorando come matti e niente, ho una figlia piccola e l'ho dovuto dare in affido a mia sorella che abita fuori provincia, proprio perché non avevo paura di infettarla col Covid. Cioè, vorrei, prima di fare tante polemiche, vorrei anche far capire alla gente cosa vuol dire lavorare dentro a un reparto dove saturano a 40-50% di ossigeno, dove in questi 2 mesi ho dovuto perfino, adesso dobbiamo fare la preghiera degli infermi perché, per i moribondi, perché ormai neanche i sacerdoti possono entrare. Cioè, bisogna un attimo di pazienza, non credo che non muore nessuno se non vanno in bar o dal parrucchiere o ma dal sì, barbiere. Ma guardi Antonio, ma che la situazione dal punto di vista sanitario sia grave e che non sia una, come dire, una roba su cui scherzare, questo mi sembra che sia stato detto in tutte le salse, e anzi approfitto, visto che fa l'infermiere, grazie, come ringraziamo, abbiamo sempre ringraziato le categorie infermieri, medici, assistenti ospedalieri, che però perché altri paesi pur tenendo conto di questa situazione grave dicono ai cittadini distanziamento sociale, regole, siate rispettosi e in qualche modo si riprende la vita? Ha sentito Schäuble in Germania dire: la dignità vale forse più della vita, la dignità, l'hanno scritto in Costituzione i tedeschi, cioè non è solo il valore assoluto della vita, ma anche della dignità che fa rima con libertà, sono valori importanti che in questo momento abbiamo totalmente ceduto in maniera così... E penso che i cittadini l'abbiano fatto in maniera intelligente, responsabile, però fino a quando si può cedere questa idea della libertà e della dignità della vita? Non lo so. Comunque io credo che ci siano poi due strade, no? Una è stimolare la responsabilità delle persone e l'altra invece è stimolare la paura. E mi sembra che forse noi, l'ha detto anche Bassetti, il virologo, nella parte che hai citato tu prima, insomma queste le due strade fondamentali. Esatto, io credo che cioè... la differenza fondamentale sia questa: se, come si è sentito prima da Simone Spezia, un sindaco va sulla spiaggia e dice se non faremo così moriremo tutti, forse mi sembra un po' eccessivo, ecco, diciamo, cioè, un è meglio conto stimolare è dire... la responsabilità. Un conto è dire, cari cittadini, la situazione è seria, comportatevi così, confidiamo in voi, mi raccomando, comportatevi così. Dopo che abbiamo bloccato tutto. Un altro conto è appunto dire ma sapete che si muore male con questa cosa? Ho capito, sì, lo sappiamo e lo abbiamo scoperto, però anche un senso di responsabilità nel cittadino che non ha 2 anni, come ci ha scritto prima Olga, non è un bambino di 2 anni da condurre per la manina. Alberto da Roma, buongiorno Alberto. Buongiorno, sì. Allora io vi ho ascoltato chiedere se eravamo arrabbiati, io sono arrabbiatissimo per appunto i bambini che sono stati dimenticati sotto ogni punto di vista, ma vorrei parlare esclusivamente della scuola, dove il servizio didattico online fa veramente, ecco non lo dico, are, finisco con are. Vabbè, ma non tutti, cioè i miei figli per esempio, vabbè, la sua esperienza è questa, è brutto. Sì, la mia esperienza è questa e le dico che sono quasi sull'orlo di denunciare la scuola. Ma come mai? Cioè, qual è il problema? Sono la scuola, gli sistemi tecnici, i professori, qual è il problema, Alberto? Allora, io ho chiesto alla preside di conoscere qual è il numero minimo di ore che devono fare in video lezione. Mi hanno risposto elencandomi tutto il decreto, facendomi capire che praticamente non sanno come interpretarlo. Cioè, le preside, le dirigenti scolastiche non sanno come interpretarlo. L'altra richiesta era capire in quale orario, in quale arco orario dovevano attenersi, perché io ho delle maestre che praticamente se ne escono, che vogliono fare la lezione alle 18 di sera, io ho mia moglie che è infermiera, che giustamente vuole tornare a casa e stare con i propri figli, non guardarli mentre stanno a fare delle lezioni, che tra l'altro non si capisce niente. Guardi, io ieri dalle ore 16 alle ore 19 ho fatto di fatto i compiti con i miei figli, cioè seguendo dalle ore 16 alle 19 ero uno straccio. Noi stiamo facendo gli insegnanti e il sacrificio io sono disposto a farlo, ma le docenti non lo stanno facendo. Ora non lo stanno facendo perché non hanno voglia, ma anche perché non hanno competenza. Ed ecco quello per cui sono arrabbiato, perché ieri sera sentendo che dice Conte che il motivo per cui i bambini non torneranno a scuola, dove tutta Europa sta tornando a scuola, premessa, magari sbagliano in tutta Europa, io questo l'ho detto e a coloro che mi insultano, perché ho detto di insultarmi e scaricare la vostra rabbia su di me, non c'è problema, via sms, premetto anche oggi, magari sbagliano in Francia a far tornare a scuola l'11 maggio, vedremo. Prego. Ok, questo lo vedremo. Quello che mi ha fatto arrabbiare è sicuramente il fatto che si dice che il motivo è che le docenti sono anziane, anzi sì. Ha sottolineato che abbiamo un corpo decente molto anziano. Beh, è vero. Ma questo è lo stesso discorso che faceva Manera sull'INPS. Questo non è questa è una cosa di cui noi ci dovremmo vergognare. Il problema è quello, effettivamente, cioè che ci troviamo in questa situazione. Non c'è dubbio che nelle situazioni di difficoltà emergono tutte le magagne che magari non abbiamo affrontato nei decenni, Alberto. Le criticità, è più bella come parola, criticità. Cioè, le criticità, c'è la burocrazia, adesso scopriamo in Italia che c'è una burocrazia da non finire, per cui un'impresa che deve chiedere dei soldi alla banca deve firmare 700 pagine. No, adesso 700 esagerato. Scopriamo che abbiamo il corpo docente tra i più anziani del mondo, adesso che gli anziani devono essere protetti. Ho capito, sì, se non ci abbiamo pensato prima, poi è una criticità. È una criticità del sistema Italia. Senti, Leonardo, niente, ho la tosse, ma non lo so, mi è andato di traverso qualcosa. Leonardo, ma lo sai, te lo ricordi Don Lino che settimana scorsa gli hanno interrotto la messa con sì, l'arrivo dei carabinieri, sì, sì. Ma lui aveva il decreto pronto sull'altare. Allora, Don Lino, siccome c'è tutta questa cosa anche della CEI che protesta, i vescovi, ecco, anche qui i titoli dei giornali, lo dico con rispetto per le messe che non si fanno. Ma ragazzi, cioè, voglio dire, non si sa se i figli, milioni di italiani vanno a scuola, il problema delle messe con i titoloni dei giornali. Detto questo, Don Lino ha proposto una giornata di sciopero della fame, giovedì, per solidarietà contro le messe che vengono interrotte giovedì. Sai che l'abbiamo chiamato anche oggi, Miriam Lucchetti l'ha chiamato, ma ha detto il suo avvocato ha detto di non intervenire più. Cioè, non so se hai capito, l'avvocato di Don Lino. Dobbiamo passare attraverso l'avvocato di Don Lino, il parroco. D'altra parte, chi non ha un avvocato in Italia? Quindi mi sembra giusto che anche Don Lino ce l'abbia, no? Io non ce l'ho, però se vuoi... Io ce l'ho. Me ne procuro uno, così... Ti conviene, perché sì, avrai dei problemi, credo, allora, prossimamente. Sì. Guarda qua, digiuno per la messa interrotta. Giovedì tu farai il digiuno della fame? No, io penso di no. Vabbè, però... Se dici così mi smonti un po' tutta la questione di Don Lino. Ah, sì, aspetta, lo faccio, oh. sì, lo faccio volentieri, ah. aderirò senz'altro. Bravo, io no invece, andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Cioè, voglio chiarire che non è che torniamo a come eravamo 3 mesi fa. Lo dico perché qualcuno mi ha mandato qualche lettera, ma con queste decisioni noi non è che possiamo riprendere la movida. La mia risposta è semplice: ma tu sei scemo o sei buono? Cioè, riprendiamo la movida, ma. C'è gente che si è bevuto il cervello. Sì, io continuo a proporti di fare l'autore, no, fai l'autore, sì, di De Luca, però, caro. Adesso è sempre il solito discorso, no? Io credo, forse ho una visione limitata, ma io vedo che nel quartiere dove abito io rispettano tutti le regole, e invece da parte di alcuni sindaci pensare che tutti noi siamo appunto gente che non vede l'ora di andarsi ad assembrare per fare gli aperitivi, insomma, mi sembra anche sì, appunto, sono tutti fenomeni, no? Noi siamo tutti cretini che non vediamo l'ora di andare a fare la movida, abbiamo bisogno di essere tenuti a bada da questi sindaci o governatori sceriffi che vedono tutto il popolo sostanzialmente come un popolo di cretini, ecco. Secondo ma me tu, insomma, ma forse... tu Leonardo Maria, tu che sei un pidiota, come scrive un ascoltatore, anzi dice una coppia di pidioti, forse ce l'ha con te e Jimmy del Bar Jimmy, siete una coppia di pidioti, tu sei buono o sei scemo? Non vedo l'ora di andare a fare la movida al Bar Jimmy, veramente, tra l'altro degli aperitivi party, anche tristissimi. Organizziamo un party al Bar Jimmy, digli Bar Jimmy, organizziamo un party, vedi un po' cosa ti risponde. Allora, vabbè, dai, si scherza. Cari ascoltatori, questo è un tema invece serio, l'abbiamo affrontato già in varie puntate. E ci stanno scrivendo man mano tantissimi ascoltatori il tema degli italiani che sono bloccati all'estero. Tra l'altro abbiamo sentito, ti ricordi, quelli in Messico, caro Leonardo? Sì. E ci faceva riferimento l'ascoltatore a questi fondi della protezione civile, UCPM, dell'Unione Europea. Ieri La Verità ha fatto proprio un articolo su questo, dicendo come mai l'Italia non utilizza i fondi dell'Unione Europea stanziati, ne hanno aggiunti 75 milioni per favorire i rimpatri degli italiani. Per correttezza devo dire che mi ha scritto anche un'ascoltatrice dicendo, insomma, raccontate bene tutti gli sforzi che stanno facendo la Farnesina, non è facile, a volte i voli costano perché tutti li pagano, costano molto perché gli aerei partono vuoti e devono tornare pieni, poi non è facile, sì, organizzare con le compagnie, insomma... Però il tema qui è che ci sarebbero dei fondi pubblici che non vengono utilizzati. Questo 80 milioni di euro, si era detto l'altro giorno. Esatto, l'ascoltatore dice negli altri paesi, la Germania per esempio è andata a prendere nelle Filippine, nel Nepal, l'Australia, in Namibia, in Argentina, in Giordania i propri concittadini e noi no. Allora ci ha scritto anche Antonio che saluto, buongiorno Antonio, che ha scritto una mail, buongiorno, perché ha la moglie in Brasile di fatto bloccata. Cosa vuol dire Antonio bloccata? È bloccata perché non è solo un problema di fondi, è un problema proprio di proteggere i voli, in sostanza praticamente li stanno cancellando e fra l'altro si cancellano sempre qualche giorno prima, non diciamo settimane. Cioè, lei va in aeroporto e a 2 ore diciamo dalla partenza o 3 ore dalla partenza scopre che il volo viene cancellato, quindi sta diventando veramente un problema. Infatti noi adesso abbiamo anche rifatto un altro biglietto, quindi ulteriori costi. Perché cioè, tutti i biglietti che vi pagate praticamente? È certo che ci paghiamo. Cioè, lei aveva già un biglietto di ritorno con la Europa, con diciamo scalo a Madrid, e quello è stato cancellato già 3 volte. Lei sarebbe dovuta ritornare i primi di maggio. Storia dei fondi che ci sarebbero a disposizione degli stati grazie a questi fondi della protezione civile europea stanziati appositamente per il rimpatrio degli italiani, ne sapete qualcosa voi? No, non viene di questa cosa qua, non se ne parla neanche, soprattutto anche diciamo nelle piattaforme della Farnesina. La Farnesina, la signora che io ho sentito il suo discorso, che dice che sta facendo tanto, non sta facendo niente. L'unica cosa che fa la Farnesina è ti dice: guarda, ti devi comprare il biglietto per quel volo. Questo è quello che sta facendo l'Italia. E questo è un dato di fatto. Tenga presente fino a questo punto ci potrebbe arrivare chiunque. Ci possiamo arrivare anche noi, quindi la Farnesina non sta facendo niente. Io contestualmente avevo scritto anche una mail a Di Maio, perché lui ha delle mail, diciamo, ma non risponde nessuno, neanche per la segreteria, cioè proprio sta diventando un problema. Adesso non per difendere, però non è che il ministro in persona deve risponderle, no. Antonio. Lui dice la segreteria, il suo entourage. La segreteria, ci sarà un ufficio, cioè saranno delle persone, dei funzionari. Guarda, io devo dire una cosa, la Farnesina, il Ministero degli Esteri, è rinomato nel mondo per lavorare in maniera egregia di solito anche in tutte le situazioni di emergenza. Sono un po' stupito, quindi vorrei capire davvero di più. Cioè, quello che voi fate è quanti voli avete già comprato e annullati spendendo dei soldi? Già il secondo. Questo è già il secondo biglietto che abbiamo fatto con Lufthansa, perché Lufthansa e Francia dicono che sia, diciamo, la compagnia che garantisce i voli. Però la Francia li sta cancellando tutti. Adesso io mi auguro che per il 9 maggio, perché l'ultimo l'abbiamo diciamo comprato per il 9 maggio, venga protetto, altrimenti rischia praticamente di rimanere ancora lì. E qual è il problema? Che in Brasile la situazione si sta complicando, quindi ho paura che tra qualche diciamo decina di giorni, perché la situazione cambia, non possa più partire. C'è il volo, però magari il Brasile chiude nel frattempo i voli in uscita. È una situazione abbastanza incredibile. Antonio, noi la ringraziamo, insomma, ci tenga informato, ripeto, come ci ha scritto anche una mamma di un italiano che sta in Messico, quindi immagino nel gruppo di cui ci siamo occupati. Scriveteci se avete notizie o di familiari o di persone di contatti che sono all'estero, non sanno come rientrare. La mail è la solita: 100milan@radio24.it. Leonardo, non ne usciremo. Non si sa, non lo so. Vai, pidiota. Allora, oggi vorrei parlare di silenzio, perché sono giorni di silenzio per le strade in tante città. Dove ci eravamo abituati a sentire rumore, adesso c'è quasi sempre silenzio. Il silenzio lo cominciamo a conoscere da bambini, quando a scuola, almeno una volta, ma anche adesso, mi dicono si faceva il gioco del silenzio. Uno dei giochi più comodi del mondo, perché non bisognava fare niente. Bisognava solo stare in silenzio. Era difficile avere un vincitore perché era possibile che più di un bambino rimanesse in silenzio, però ci potevano essere quelli che trasgredivano, i contestatori, e che poi venivano puniti dalla maestra. Per andare bene invece bastava non fare niente, rimanere lì in silenzio pensando alle proprie cose. Poi tornavi a casa e la mamma ti chiedeva: come è andata oggi? E tu: bene. Non ho fatto niente. Come niente? Sì, sono stato in silenzio senza fare niente, in silenzio. L'elogio dell'inattività. oppure elogio del piegare silenziosamente la testa di fronte al potere di chi aveva il gessetto del controllore. Forse la prima forma di autoritarismo nella vita, abituati fin da piccolo a chinare il capo e rimanere in silenzio, non per essere premiati, ma per non essere sgridati. Poi si cresce, si diventa adolescenti, i primi amori. Quando nascono i primi amori possono capitare due tipi di silenzio. Il silenzio che precede il primo bacio, quando dopo tante parole si smette per un attimo di parlare, ci si guarda negli occhi e in silenzio si capisce che è arrivato il momento di avvicinare le labbra. E poi dopo il bacio, quando c'è la silenziosa constatazione di quello che è successo, ci si guarda per un attimo negli occhi prima di tornare a baciarsi ed eventualmente lanciarsi anche in altre manovre. Ma il silenzio che c'è dopo il primo bacio è un silenzio che serve a dire come va tutto bene, possiamo procedere in modo più consistente. Non c'è bisogno di parole, basta uno sguardo silenzioso con gli occhi che si incontrano. In coppia poi, quando si sta insieme, può capitare che ci sia un momento di silenzio quando si va a controllare il test di gravidanza. Se il test è positivo e se il figlio era voluto, dopo il silenzio di solito c'è un bacio, un tenersi la mano e uno dei due che dice amore. Se il test è positivo ma il figlio non era voluto, al silenzio segue un altro silenzio e dentro di sé ognuno pensa parole non proprio carine da dire in radio. Se il test è negativo invece quasi sempre si tira un sospiro di sollievo e poi, sollevati dalla notizia, di solito si fa l'amore senza precauzione ed è la volta che lei rimane incinta. Poi spesso c'è un minuto di silenzio anche dopo aver fatto l'amore, minuto di silenzio che può essere variamente interpretato a seconda di come è andata. In quel caso, per valutare il silenzio, bisogna ascoltare le parole che vengono dette subito dopo. Se uno dei due dice ma, probabilmente c'è qualche problema. Se uno dei due dice amore, non è detto che sia un buon segno, può anche essere l'inizio della lamentela. Se il silenzio si prolunga oltre i 10 minuti, o ci si è addormentati o ci sono problemi irrisolvibili. Il silenzio di coppia che preferisco però è quello che capita raramente, ma qualche volta succede. È quando in un qualsiasi momento della giornata, durante una qualsiasi attività, si capisce di essere sulla stessa lunghezza d'onda, si percepisce di essere veramente insieme. Allora si smette di parlare, ci si guarda e si sta per qualche attimo in silenzio, assaporando quel momento che è magico e che poi ci si ricorderà per sempre, anche nel momento della separazione. Quello che è certo però è che il silenzio segna sempre momenti importanti della vita, come quello che stiamo vivendo causa coronavirus, le strade vuote, i visi coperti dalle mascherine e in tante città un silenzio irreale, spezzato solo ogni tanto dalle sirene delle ambulanze. È un silenzio doloroso, ma carico di vita. Abbiamo baciato il coronavirus, ci siamo accoppiati con lui, ma ora non vediamo l'ora di separarci da lui. Sarebbe bello che ora ci lasciasse liberi per darci il tempo di vivere in estate altri rapporti più gratificanti, più soddisfacenti, anche se sicuramente meno duraturi. Bravo Leo. Allora, stanno arrivando tantissimi messaggi, anche chi mi dice vuoi liberarti dei tuoi figli in casa, dillo, santo, ma no, ma che liberarmi dei figli in casa, cioè, sono segregati in casa, poveretti, vorrei dare loro, far riacquisire un po' la libertà. Ci ha scritto Massimo Vita, vicepresidente nazionale di IRIFOR ONLUS, sono un disabile visivo cieco assoluto e ritengo che questo decreto, vabbè, sia una sonora presa per beep, un po' di puntini, dice: di fatto sono segregati in casa pensionati, disabili, badanti, impiegati pubblici, i pochi che lavorano a distanza non pensano alle imprese, dimenticano i disabili, i bambini e fanno finta di pensare agli anziani. E ci scrive: aiutaci a difendere la nostra libertà. Per carità, la libertà va contemperata con le esigenze di salute pubblica e lo sappiamo. Non lo so se, come dice Manera, se la strada giusta sia quella di instillare le paure o se non più quella di promuovere la responsabilità. Ma il tema è: siamo responsabili abbastanza, Leonardo, per assumerci questa responsabilità? È un altro bel tema questo. Lo si può diventare. Non si può diventare. Dai, andiamo al giornale radio, seconda ora di Non sono uno, nessuno 100.000, anzi terza mezz'ora subito dopo. Uno, nessuno, 100.000. Nera, riguardo al discorso che hai fatto su De Luca, ti farei 180 minuti d'applausi in 3D. Dottor Milan, certo che il colpo per la Fornero, 65 anni, eravamo troppo giovani per andare per stare a casa, e adesso 60 anni ci vogliono chiudere in casa. Allora, caro Leonardo, terza mezz'ora di Uno Nessuno 100.000, ci sei? Tutto a posto? Eccomi, sono qui, stavo guardando una scolapasta. Stavo guardando uno scolapasta, sì. O ci parlavi anche? No, lo sto guardando perché mi si è rotto lo scolapasta che ho con me dal 1989 e mi ci ero affezionato. E mi si è rotto definitivamente, lo dovrò cambiare, spero di poterlo trovare in qualche negozio aperto. Ma sì, mi è dispiaciuto, dai, come se fosse, magari c'è... Sì, ma mi è sì. dispiaciuto come se fosse un parente, ecco, in qualche modo, perché l'89 sono tantissimi anni che ho con me questo. Non ho mai avuto un rapporto così lungo nella vita come quello col mio scolapasta. Vabbè, insomma, non vogliamo approfondire, ma di plastica, dall'89. No, di alluminio. Va bene, non so, prendo la frase per introdurre l'ospite, non ho mai avuto un rapporto così lungo come con lo scolapasta. Saluto l'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace, buongiorno avvocato. Buongiorno a voi, effettivamente 30 anni sono tanti, E sono tanti, ma Leonardo Manera è così. Le donne 5 anni, 6 anni, 4 anni. Un uomo molto interessante, perché chi ha un rapporto di 30 anni con uno scolapasta non oso pensare con una donna come la cura, come la mantiene, come la sciacqua, come la asciuga. È una meraviglia. Oh, va bene. Senta, avvocato, noi vogliamo capire che cosa succederà quando, se mai, si riaprirà e ci sarà una fase 2 vera. Qualcuno dice sarà un profluvio di separazioni. Non lo so se sarà così, forse sì. Io penso che ci sarà sicuramente, perché già ho avuto i segnali, perché praticamente io non ho mai smesso di lavorare e se io lavoro per questo, che i tribunali sono chiusi, quindi non si può fare niente, si possono fare solo le azioni d'urgenza, per esempio gli allontanamenti da casa in caso di violenza, ma le separazioni normali non si possono fare, ricominceranno a giugno e credo che ci sarà tanto da fare, anche se vi devo dire la verità che ci sono anche delle riconciliazioni, non guardiamo sempre l'aspetto negativo. Ecco. Sì, io le ho vissute proprio quasi in diretta, perché ci sono delle persone che si sono scoperte all'improvviso, dopo anni che uscivano al mattino, si vedevano la sera, si occupavano dei figli, improvvisamente si sono riscoperte, hanno ricominciato a parlare, hanno trovato un linguaggio comune, per esempio per i figli, anche dei padri che improvvisamente si sono occupati dei compiti dei figli che non avveniva prima, anche se ci sono situazioni bruttissime, perché con questo fatto della scuola da casa, per esempio, lei pensi a una famiglia dove la mamma è maestra e quindi deve fare la scuola agli alunni la mattina. Poi ci sono tre figli e il padre che fa smart working. Non hanno in casa 5 computer. Non ce ma li hanno, quando perché... molti la contattano dicendo non ce la faccio più, appena finisce tutto mi separo, poi dopo... Ecco, stavo dicendole questo di questa famiglia, dove non ci sono 5 computer, ma poi dopo lo faranno, secondo computer, me? E sì, non ma ce lo la faranno? Più. No, ma poi si separeranno secondo lei oppure sono quei momenti di esasperazione? Ma le liti sono forti, gli argomenti per i quali litigano, cioè litigano per i figli, perché litigano perché la scuola non funziona, litigano perché la moglie dice tu non sei capace di andare a chiedere la restituzione della retta, litigano per le cose, per cose interne al lockdown. Eh sì. Sì, io invece sì. Avrei un'altra domanda da fare all'avvocato che riguarda le coppie già separate. Se c'era un genitore che versava il mantenimento all'altra persona, all'altro coniuge separato, e adesso magari ha perso il lavoro, non sta più incassando nulla, come può procedere per cercare eventualmente, o se è possibile, ridurre la quota di mantenimento, posto che in questi casi magari non c'è l'accordo fra le parti? Come si può fare eventualmente? Si può fare una richiesta al tribunale? Hanno già provato a non dare, però non possono farlo, c'è un provvedimento del giudice che ha un valore, così come ha un valore il provvedimento del giudice per cui i figli si spostano per andare da un genitore all'altro, anche se c'è il lockdown, così ha un valore il provvedimento del giudice che impone di pagare, però impone, tutti ci stanno però provando a non dare questi soldi. Però a volte è anche proprio una situazione di necessità, se una persona non incassa più nulla. È per tutti, cioè anche la moglie come si trova, la mamma dei bambini? Può essere che una persona, per esempio, abbia un impiego, per esempio, in cui continua ad incassare lo stipendio, e l'altro coniuge magari abbia una partita IVA e non può. Si vedranno queste cose, però si vedranno alla fine quando riapriranno i tribunali. Ma nel frattempo come si fa? Se uno non incassa più nulla, come può fare a versare la quota? Se fa qualsiasi cosa, se no non paga e subito può avere una denuncia per violazione degli obblighi di assistenza familiare, può avere un precetto, ci sono tanti modi, a parte che non c'è nessuno che non abbia almeno da qualche parte in tasca 1.000 euro, per cui intanto si affronta il mese. Diciamo che insomma, prima di tutto, cioè lei ha parlato con la testa proprio di quello che è obbligato a pagare da un provvedimento. Sì, Leonardo. Cioè, io le auguro di trovare uno scolapasta che non costi una cifra esagerata, perché non so se dovrà scegliere tra la passione e il denaro. No, allora, io le porto una situazione che è di molte persone che stanno vivendo delle grosse difficoltà economiche. Cioè, si affronterà dopo, ora non si può. Perché c'è un provvedimento. In questo momento non si può, come dire, fare di testa propria. Ma devono mangiare. Ma certo. Ma lei non andrebbe a rubare per i suoi figli? Sì, ho capito, ma bisogna probabilmente anche trovare un accordo tra le parti nei momenti di difficoltà. Non è obbligatorio? Certo. Non è obbligatorio, vuol dire che... Non è obbligatorio, non si può trovare un accordo, i bambini devono mangiare tutti i giorni. Avvocato Bernardino Pace Leonardo Manera ne uscirà battutissimo da questa telefonata il nostro Leonardo Manera. Però no, dal punto di vista della legge lei ci sta spiegando come funziona. È un po' una legge molto inflessibile, ecco. Ma non è la legge, è un provvedimento giudiziario, una sentenza. È flessibile di per sé quando si andrà davanti a un giudice e si dirà: io ho perso il lavoro. Sicuramente, avendo perso il lavoro, diminuiscono l'assegno, non lo tolgono, glielo diminuiranno, ma non lo tolgono, perché il diritto dei figli a essere mantenuti è maggiore. Nessuno ha detto di toglierlo, ha detto eventualmente di diminuirlo, stante la situazione. Ha perso il lavoro, come lo va, come paga, con che cosa? Trovano ovunque i soldi per poter pagare. Appunto, e quindi in ogni caso, finché non si arriva dal giudice, si trovano ovunque. Certo, allora il problema ho sentito con le mie si trovano orecchie. Ovunque, non è detto che si trovino ovunque, questo lo dice lei, che si trovino ovunque, ma bisogna vedere, ci sono tante persone che non li trovano proprio. Io ho sentito con le mie orecchie dire, cioè, se lei non vuole mantenere suo figlio, lo vuole fare morire di fame. Non mi deve dire che io non voglio mantenere mio figlio, perché io l'ho sempre mantenuto mio figlio. È un discorso generico. Se uno non vuole, ce ne sono mille che non vogliono mantenere i figli. Però io ho sentito con le mie orecchie un giudice bravissimo, uno dei migliori del Tribunale di Milano, di fronte a uno che si è presentato dicendo: ma io sono disoccupato, il giudice ha risposto: non me ne frega niente, lei va ogni mattina all'ortomercato a scaricare cassette, le danno dalle 4 del mattino alle 9 50 euro e ha 1.500 euro al mese senza pagare le tasse per mantenere suo figlio. Insomma, lei ci sta dicendo, avvocato, non si può come dire, decidere senza un provvedimento del giudice di cambiare le situazioni. Però, si può almeno fare una richiesta al giudice, sì, certo, però il giudice poi deciderà. Sì, l'ho già detto, al giudice si fa, però i giudici fino all'11, mi pare 10 di giugno, non mi ricordo che cosa ha detto, non fanno provvedimenti, non funzionano, invece, i tribunali. Le volevo chiedere questo, avvocato, si può chiedere all'ex coniuge, insomma alla mamma, al papà, un accordo, come dire, si può chiedere, ma fuori come sacco, lei lo fuori chiede sacco, l'altro è libero di dire certo, no. Certo, cioè, però mettersi d'accordo privatamente, certo, a dire va bene, dai, dammi la metà. Ma si può anche dire all'ex coniuge, posso non mantenere più tuo figlio? E l'ex coniuge dire di sì, si può, però l'altro è libero di dire di no. Certo, no, chiaro. Fino a quel momento vige il provvedimento del giudice, che finché non è cambiato uno deve rispettare. Va bene, insomma, ci ha chiarito e noi la ringraziamo. Anna Maria Bernardini De Pace, sei arrabbiato, Leonardo? No. Abbiamo ascoltato tutti con interesse, giustamente, le parole dell'avvocato. Perché secondo me anche questa è una situazione che va chiarita in qualche modo, insomma, bisogna capire come comportarsi. Quello che ci ha chiarito, ma guarda che ci aveva scritto anche un papà separato. Allora, la chiarezza dell'avvocato di Bernardini di Pace è stata questa, cioè fin quando un giudice, e non succederà prima di 2 mesi a sto punto, non cambierà gli accordi, quegli accordi valgono, e se uno è in una situazione di difficoltà, come ci ha detto l'avvocato, deve trovare in qualche modo i soldi per rispettare questi accordi, e poi si vedrà dopo, quando riapriranno un po' tutti. Dai, andiamo a sentire il traffico. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Uno, nessuno, 100 Milan. Scusate, ma questa questione degli italiani che sono all'estero, o ci sono per in vacanza o ci sono andati per lavoro. Se sono andati per lavoro, i costi di ritorno se li sobbarca ovviamente il datore di lavoro. Se sono andati in vacanza, ragazzi, quando vai in vacanza all'estero, in certi paesi, il qualche rischio in più ce l'hai, per cui ti pagherai il volo. Capisco che c'è difficoltà, infatti, a parte che lo vogliono pagare, lo vogliono pagare, il tema è come mai l'Europa ha messo a disposizione 75 milioni di euro per finanziare questo fondo della protezione civile europea, e tutti gli stati utilizzano questo fondo per far rimpatriare i propri connazionali e l'Italia no, anche perché magari uno il volo di ritorno delle vacanze è stato cancellato e quindi si deve comprare un secondo volo. Comunque, Leonardo, poi ci siamo sono anche collegati. Persone che vanno all'estero a lavorare, abbiamo parlato l'altro giorno. Sì, però che su quello dice all'estero per lavorare. Deve pagare l'azienda, sì, poi insomma va bene che paghi il datore non di lavoro. Non è sempre ovviamente vero, se un musicista per esempio va a suonare, che ne so, in Messico, non è che poi chi ti ha fatto andare lì ti paga il rientro. Sì, come era il musicista nostro. Comunque siamo collegati, è quindi piena notte, mattino presto, non lo so, lo chiedo a lui, con Carlo Collovà, che è collegato con noi da Skype dall'Argentina. Buongiorno Collovà. Buongiorno, buongiorno. Eccoci. Qua sono che le ore sono? 5:20. 5:20. Lei è un imprenditore, è bloccato in Argentina, sì. E ci spieghi un po' cosa sta succedendo. Sta succedendo che purtroppo l'Italia non accede a questi fondi e quindi ci propone dei rientri con Alitalia a prezzo pieno o anche di più, diciamo, perché i prezzi si aggirano dai 1882 euro fino ai 2005-2006. Ok. E lei per un po' lo solo andata a Buenos Aires, Roma. Sì, certo. Eh sì, perché come sa, cioè, il volo deve partire vuoto da Roma e poi ritornare pieno. Ma lei ce li ha questi soldi? È disposto a pagarli? Cosa, che tipo di denuncia vuole fare? E allora, anche la parte del volo parte vuoto non è proprio esatta, perché proprio in questi giorni l'Italia sta vendendo in Italia i biglietti per i cittadini argentini per portarli qui, è sempre allo stesso prezzo, e poi dovrebbe riprendere noi il 30, dovrebbe partire il 29 da Roma un volo all'Italia, quindi non si spiega, continua a non spiegarsi neanche con l'andata e ritorno questi prezzi. Certo. E noi chiediamo, siamo parecchi qui, siamo più di 300, e molta gente non può permettersi di spendere queste cifre. Noi chiediamo che appunto acceda anche l'Italia ai fondi della Protezione Civile Europea, perché la Germania ha rimpatriato più di 28.000 persone con questi fondi, sì. La Francia quasi 5.000, la Spagna più di 3.000. Perché l'Italia non li chiede? Proprio sì, tra l'altro so che, so che c'è anche una petizione, lei non so perché è conosciuto come Jesus, addirittura non so, sì, non so come mai sì, è conosciuto storie, così. Anni di capello. Anni di cappellone. È stato per tanti anni un cappellone. lei ha fatto anche una sorta... Leonardo, è così, so che non capisci l'argomento. Il nostro no, Leonardo, non è vero che non lo capisco io. No, io fino a 30 anni ho avuto i capelli molto lunghi, ecco, quindi è inutile fare ironia su questo problema grave che riguarda. No, però il privato. Nostro Carlo Collova ha fatto anche una denuncia in piena regola parlando di una truffa ai danni di questi italiani. Truffa di che tipo sarebbe? È una speculazione in piena regola, perché l'Italia vende i biglietti sul suo sito come voli speciali di rimpatrio, mentre l'ambasciata, quando noi chiediamo notizie, ci risponde che non sono voli speciali di rimpatrio, ma sono voli commerciali a tutti gli effetti. Quindi non dovrebbero costare così tanto. Cioè non si spiega questa cosa, c'è un anche perché l'Italia non può vendere una cosa per un'altra, cioè a sto punto non dichiara lo volo commerciale, non puoi dirmi. Ma senta, ma lei quando chiama in ambasciata non chiedete questa storia dei fondi, e se chiedete cosa rispondono? Cioè dicendo dovreste pagarli cosa voi con i fondi. In qualsiasi sede possibile e immaginabile. E cosa non abbiamo rispondono? Mai ottenuto risposta. Mai ottenuto risposta né via mail né al telefono né niente. Cioè vi dicono dovete pagarli raggiunto. Voi, dovete pagarli voi. Sì. Noi non possiamo fare niente, è la Farnesina, noi non possiamo fare uno scaricabarile, non ci sono voli di Stato al momento. Questo è quello che ci rispondono. Noi ieri addirittura abbiamo raggiunto per mail, tramite un ragazzo che parla molto bene l'inglese, la segretaria della Protezione Civile Europea. Ah. E abbiamo chiesto informazioni, e lei di domenica sera si è presa la briga di risponderci e ha detto che anche loro sono sconvolti di questo fatto. Il collegamento, cioè, se ho capito bene, anche alla Protezione Civile Europea sono colpiti o sconvolti del fatto che non vengano utilizzati questi soldi. Sì. Bisognerebbe capire qual è il motivo, se effettivamente sono già stati erogati. Allora, guardi, allora facciamo così, Carlo Collova, che il collegamento va e viene, ma ci tenga informato nei prossimi giorni, perché sta nascendo, come dire, vedo la mail, ci sono già tante altre mail di persone, per esempio, anche più vicine, mia figlia attualmente a Bruxelles ha già acquistato 3 biglietti da 3 compagnie aeree, ma da inizio marzo non riesce a rientrare a Bergamo, ci scrive Gerardo. Oppure un altro ascoltatore dice i miei suoceri sono andati a Rio de Janeiro a trovare i nipoti e poi sono rimasti bloccati lì, ci scrive Simone. Noi quello che possiamo, lo dico alla redazione, ogni giorno cercheremo di capire qualcosa in più. Voi scriveteci a 100.000@radio24.it, racconteremo, come dire, queste storie di italiani bloccati all'estero. Non si capisce. Forse qualcuno resterà a vivere all'estero per sempre in Argentina. Così può anche chi lo sa? Chi lo sa? Non lo so. Sentiamo Diego da Avellino intanto. Buongiorno Diego. Buongiorno a voi. Beh, innanzitutto sì, sono contento perché ho scoperto che i soldi si possono trovare ovunque. La metterei la sua ospite precedente la insieme ai 450 ha detto 1000 euro si possono trovare anche io. Vabbè, io la metterei, diciamo, nella lista dei 450 saggi che stanno studiando per come risolvere i problemi. Vabbè, chiudo. Prego. Volevo dire, io gestisco un impianto carburanti con un bar. Sinceramente io non apro. Ma perché non apro? Perché non ci sono né le condizioni economiche per aprire, nel senso che, lasciando tutto il mondo come si trova, io non fatturerò quello che fatturavo prima. Ma non solo, il dato più pericoloso è un altro. Dovesse includersi di nuovo questa situazione, dopo che faccio investimenti e tutti, il buon De Luca arriva con lanciafiamme e mi chiude. Quindi preferisco evitare danni e non aprirò. Però Diego deve avere, non giusto per parafrasare la Bernardi De Pace, dovrà avere qualche soldo da qualche parte che le permetterà di vivere, perché sennò questo è chiaro diciamo, ingrasserò la lista dei mantenuti, perché la mia telefonata riguarda proprio questo. Innanzitutto speravo che la politica ritornasse a fare la politica e che i comitati di scienziati sono sempre stati chiamati consultivi ai miei tempi. Sì. Adesso mi sembra che siano diventati legislativi. Ma il problema è un altro. Io non ho i numeri, non ho i dati. Mi chiedevo, ma questa nazione, in realtà, di quanti assistiti è fatta e di quanti partita IVA è fatta? Cioè, in pratica, vorrei capire. Questa nazione, la maggioranza è quella lì che potrebbe stare chiusa in casa anche per 9 mesi, perché tanto o la pensione, poveri loro, o lo stipendio, o altre formule di assistenza continuano ad arrivare. Quindi vorrei conoscere, e in questo chiedo Radio 24, sì, che ha sicuramente quanti i mezzi. Quanti sono gli assistiti? Cioè, ma per assistiti intendo, e non me ne vogliano, perché per carità svolgono un ruolo importantissimo. Gli insegnanti, i dipendenti comunali, cioè voglio dire, lei dice non, dipendenti pubblici, ma fanno il lavoro. Diego, aspetti che devo chiudere. Io non dico che non lavorano. Ma voglio dire, però il termine assistiti non è proprio corretto. Gli assistiti intendevo l'altro ruolo, sì, l'altro settore. No, ma è chiaro. Allora Diego, fermi lì, perché altrimenti aspetti, se no sforo. Sente già che c'è la sigla, ha avuto il suo tempo per dire le cose. Allora, come al solito, ci fermiamo qui con la terza mezz'ora di Uno Nessuno 100 Milan. Caro Leonardo Manera, dai, è il momento, non ti arrabbiare, sento che un pochino arrabbiato l'intervista con l'avvocato Bernardi De Pace, che ha lasciato un po' di amaro in bocca. Apri la finestra e urla al mondo per tutta la settimana, vai. Siate sereni nei limiti del possibile. Uno, nessuno,